Il diario di Q. Viterbo, 25 giugno 1549. Il Farnese è morente. Potrebbe essere domani, come fra 3 mesi. La frenesia delle trattative cresce man mano che la salute abbandona il corpo stanco di Paolo III. Gli equilibri non sono favorevoli agli zelanti. Reginald Pole è il cavallo dell'imperatore e la sua fama è alle stelle. Il campione della fede sembra poter mettere d'accordo molti. Se si entrasse domani in conclave, i giochi sarebbero fatti. In tal caso, l'intera trama intessuta da Carafa in questi anni si sfalderebbe. Il suo grande avversario sul soglio papale è eletto dal suo più acerrimo nemico, l'imperatore. Non c'è giorno da perdere. Carafa incita l'alleato francese a tentare delle contromosse. Vuole scompaginare il quadro attuale, rallentare i tempi, riaprire i giochi. Il re di Francia, Enrico II, seguendo le orme del padre, ha rinnovato l'alleanza con i principi protestanti. Carafa lo sprona a riprendere la guerra, ma vi sono molte resistenze. Finanze sempre dissestate, equilibri interni traballanti, il progressivo allontanarsi dalle vicende italiane. Il capo del Sant'Uffizio deve mettere in campo tutta la sua arte per ribaltare un esito che gli sarebbe letale. Il clima è quello della resa dei conti. Chi uscirà vincitore non esiterà a spazzar via l'avversario. Il calcolo è incessante. Ogni voto spostato può essere decisivo. Si promette tutto a tutti. I privilegi da distribuire e il tempo che rimane sono i veri padroni di questo scontro. Carafa deve fronteggiare il momento più importante proprio quando le fortune dell'odiato imperatore sono all'apice. Sembra di poterne toccare l'umore nero e la fredda determinazione. Qui a Viterbo, invece, i volti sono ben più distesi. Va diffondendosi la fiducia nell'immanente raccolto di un'antica semina, come essi amano chiamare l'esito che si prospetta. L'inglese dispensa sorrisi e poche, pacate parole, mentre intorno a lui cresce l'euforia. Viterbo, 7 settembre 1549. Il Farnese è duro a morire. Gli spirituali scalpitano. I loro sorrisi sono più tirati, l'attesa li logora. Temono eventi che possano mutare gli equilibri che li favoriscono. Temono, senza nasconderlo, ogni mossa di Carafa. Ne hanno ben ragione. Il vecchio teatino ha sempre in serbo un'arma segreta, l'estrema ratio di una guerra che non può perdere, il beneficio di Cristo. Qualora i pronostici dovessero rimanere immutati, non esiterà a usarla. Mi ha detto di stare allerta, ma tiene ancora segreti i suoi piani. Potrebbe usare il beneficio per attaccare Paul e gli spirituali frontalmente, accusando l'inglese di essere il vero redattore di un libro scomunicato dal concilio. Potrebbe torchiare qualche pesce piccolo del circolo viterbese per farlo confessare. Però dovrebbe farlo adesso, esporsi personalmente. Sarebbe rischioso. Carafa non ama mettersi al centro del fuoco avversario. Se lo conosco, sceglierà un'altra via. Far circolare voci sempre più insistenti, più dettagliate, sulle conseguenze dell'ascesa di Reginald Pole al soglio pontificio. Il Papa che sostiene dottrine scomunicate dal Concilio di Trento. Immagini di disgregazione, cupi presagi di un conflitto paradossale insanabile. Il drammatico indebolimento della Chiesa di Roma. La sua totale dipendenza dall'autorità secolare dell'imperatore. Un quadro fosco che dovrebbe spaventare molti, spostare voti determinanti. Solo allora Carafa entrerebbe in gioco, a conclave in corso, come colui che porta l'ordine e una ragione superiore. Carafa, il conciliatore. Mi viene da ridere. Roma, 10 novembre 1549. Paolo III Farnese è morto. Si spegne una delle dinastie più influenti d'Europa. Un'agonia lunga, e adesso tutti trattengono il fiato, come ghiacciati dal senso di qualcosa di incombente. Non è più questione di quale sarà la prossima famiglia a tenere le redini del potere pontificio. Non è più questo in gioco. È il ruolo della Chiesa, la concezione del potere stesso, che essa dovrà esercitare. Siamo alla fine di un tempo e al durissimo confronto fra due fazioni, due modi contrapposti di pensare la cristianità. Una sola cosa è certa, non si tornerà indietro. Non più potentati familiari ad alternarsi, allearsi e dividersi, ma la necessità di tenere in equilibrio una costellazione di forze apparati e nuove entità che emergono con vigore. La Chiesa luterana, Calvino e i suoi seguaci, l'Inquisizione, gli ordini caritatevoli, i gesuiti, con quell'Ignazio che non dà tregua a nessuno. E tutto questo a fronteggiare le mutevoli sorti di imperi, regni, principati. Per quanto acerrimi avversari, e con mire diverse, sia Carafa che Paul sanno che la Chiesa dovrà essere un'altra cosa rispetto a quello che è stata finora. Guardano avanti, lontano dai vecchi modelli. Roma, 29 novembre 1549. I cardinali sono entrati in conclave. Nei vicoli di Roma si scommette su Paul, il favorito. Io ho scommesso contro. Seguendo le direttive di Carafa, mi aggiro per i capannelli di preti, chierici, curiosi, giocatori e popolani che affollano le piazze. Li disoriento con le indiscrezioni sui veri autori del beneficio di Cristo. Non sono l'unico. Gli spirituali proveranno a risolvere la partita subito, approfittando del fatto che i cardinali francesi ritardano. Un percorso difficile il loro, sia per terra che per mare, attraverso i territori dell'imperatore che ne ostacola l'arrivo. Roma, 3 dicembre 1549. Fumata nera. 21 voti per Paul. Gliene servono 28 per raggiungere i 2/3 necessari. Come le notizie riescano a uscire da là dentro è sempre un mistero, ma si può star certi che almeno un paio di volte al giorno giungono puntuali e dettagliate. Roma, 4 dicembre 1549. Fumata nera. Paul ha preso 24 voti. Il consenso aumenta, ma corre voce che i cardinali francesi stiano per arrivare. Se Carafa riesce a ritardare l'elezione di Paul ancora per un giorno, l'inglese potrebbe uscire dai giochi. Roma, 5 dicembre 1549. Le voci dicono che Carafa ha lanciato l'accusa. Non un attacco frontale, non fa per lui. Piuttosto un avvertimento, un invito a ragionare sui rischi che si devono evitare. Avrà di certo suggerito, a quelle venerande orecchie, quale paradosso e quale enorme problema rappresenterebbe ritrovarsi con un papa coautore del Beneficio di Cristo, un libro scomunicato dal Concilio. Ha sicuramente sventolato davanti a quei vecchi lo spauracchio delle lotte tra vescovi e pontifici che la Chiesa ha già conosciuto nei tempi passati. Ha insinuato il dubbio in coloro che già ricambiavano il serafico sorriso inglese. Oggi pomeriggio la votazione. Mi ha fatto pervenire un messaggio. Poche parole, sufficienti a trasmettere la tensione del vecchio teatino. Gli spirituali hanno preso accordi con 3 cardinali neutrali. Se Paul ottiene 26 preferenze, trasferiranno i loro voti su di lui. Se ce la fa, l'ordine di raggiungere immediatamente la casa madre dei Domenicani. Se ce la fa, è finita. Tra un'ora la votazione. Inganno il tempo nervosamente. 25 voti. Ne manca uno. Uno solo. Si sono guardati a lungo. Nessun'altra mano alzata. Fumata nera. Roma, 6 dicembre 1549. Cardinali francesi in conclave. Paul non può più farcela. Siamo stati appesi a un filo che non si è spezzato. Roma, 14 gennaio 1550. Estenuante. Sono chiusi là dentro da 48 giorni. Non c'è accordo. Ogni giorno un nome nuovo, senza che nessuno ci creda. Si scommette anche su chi non uscirà vivo dal conclave. Potentissimi vecchi che si logorano dentro stanze chiuse nel tanfo di piscio ed escrementi. Immagino i volti stanchi, i corpi indeboliti, le menti annebbiate. L'ideale per Carafa. Roma, 8 febbraio 1550. Fumata bianca. Nuntio vobis magnum gaudio. Habemus papam. Sibi nomen imposuit Julius III. 73 giorni per doppiare la metà di questo secolo e trovare il compromesso. Giovanni Maria del Monte, vescovo cardinale di Palestrina. Giulio III.